Quella scena, del resto, non era precisamente comica, bensì di una stranezza, o se si preferisce naturalezza, sempre più suggestiva. Charlus aveva un bel fingersi distaccato, abbassare distrattamente le palpebre. Ogni tanto le risollevava e lanciava su Jupien uno sguardo carico d'attenzione. Ma, forse perché riteneva che una simile scena non potesse prolungarsi indefinitamente in quel luogo, o per ragioni che si capiranno in seguito, o per quel sentimento della brevità di tutte le cose, in forza del quale si desidera che ogni colpo vada a segno e che rende così commovente lo spettacolo d'ogni amore, Charlus, nel guardare Jupien, faceva sistematicamente in modo che lo sguardo fosse accompagnato da un messaggio, col che gli conferiva un'estrema diversità rispetto agli sguardi rivolti, di solito, a qualcuno che si conosce poco o non si conosce affatto. Guardava Jupien con la speciale fissità di chi sta per dire: «Perdonate l'indiscrezione, ma avete un lungo filo bianco sulla schiena». Oppure: «Penso proprio di non sbagliarmi, dovete essere anche voi di Zurigo. Non ci siamo incontrati spesso dall'antiquario?» Ogni due minuti un'occhiata di Charlus sembrava formulare intensamente la medesima domanda diretta a Jupien. Come quelle frasi interrogative di Beethoven, ripetute all'infinito a intervalli regolari e destinati, con un'enorme profusione di preparativi, a introdurre un nuovo motivo, un cambiamento di tono, una ripresa. Ma la bellezza degli sguardi di Charlus e di Jupien consisteva invece nel fatto che, almeno in via provvisoria, essi non sembravano porsi lo scopo di conseguire alcunché. Era la prima volta che vedevo, ad opera appunto del barone e di Jupien, manifestarsi quella bellezza. Negli occhi di entrambi si accendeva il cielo, non di Zurigo, ma di qualche città orientale di cui non avevo ancora indovinato il nome. Indipendentemente da quanto potesse trattenerli, sembrava che l'accordo fra Charlus e il farsettaio fosse concluso e che quegli inutili sguardi fossero solo dei preludi rituali, simili alle feste che si celebrano prima di un matrimonio già convenuto. Accostandosi ulteriormente alla natura, e la molteplicità di questi paragoni è in sé tanto più naturale in quanto un uomo, se lo si esamina per qualche minuto, sembra successivamente un uomo uccello o un uomo insetto, li si sarebbe detti due uccelli, maschio e femmina, intenti rispettivamente, il maschio, a studiare una forma di approccio, la femmina, Jupien, a osservare il nuovo amico senza alcun segnale di risposta alle sue manovre, ma anche senza stupore, con una fissità distratta, ritenuta evidentemente più eccitante ed essa sola proficua, dal momento che il maschio aveva fatto la prima mossa, lisciandosi le piume e basta. Alla fine Jupien dovette pensare che l'indifferenza non fosse più sufficiente. Dalla certezza della conquista a farsi inseguire e desiderare non c'era che un passo, e Jupien, decidendosi ad andare al lavoro, infilò il portone. Ma fu solo dopo aver girato due o tre volte la testa che scantonò nella via, dove il barone, trepidante all'idea di poterne perdere le tracce, si slanciò per riacciuffarlo, fischiettando con aria spavalda e non senza aver gridato un «arrivederci» al portinaio, il quale, mezzo ubriaco e impegnato con certi ospiti nel suo retrocucina, non lo sentì nemmeno. Nello stesso istante in cui il signor di Charlus infilava la porta sibilando come un grosso calabrone, un altro, ma vero questo, fece il suo ingresso nel cortile. Che fosse quello di cui l'orchidea aspettava da tanto tempo l'arrivo, il portatore di quel polline così raro, senza il quale sarebbe rimasta vergine? Ma non potei seguire i trastulli dell'insetto perché, pochi attimi dopo, sollecitando più vivamente la mia attenzione, Jupien, allo scopo forse di prendere un pacco che più tardi portò via con sé e di cui si era scordato nell'emozione provocatagli dalla comparsa del signor di Charlus, o forse molto semplicemente per una ragione più naturale, Jupien ritornò, seguito dal barone. Questi, risoluto a precipitare gli eventi, chiese un fiammifero al farsettaio, ma subito osservò: Vi ho chiesto d'accendere, ma accorgo d'aver dimenticato i miei sigari. Le leggi dell'ospitalità ebbero la meglio sulle regole della civetteria. «Entrate e avrete tutto ciò che vorrete», disse il farsettaio, sul cui volto il disdegno lasciò il posto alla gioia. La porta della bottega si richiuse su di loro e non potei sentire più nulla. Avevo perso di vista il calabrone. Non sapevo se fosse o no l'insetto occorrente all'orchidea, ma non dubitavo più che un rarissimo insetto e un fiore prigioniero potessero miracolosamente ricongiungersi. Dal momento che il signor di Charlus, semplice raffronto fra casi provvidenziali, a prescindere dalla loro specie e senza la minima pretesa scientifica di accostare certe leggi della botanica a ciò che in modo non di rado improprio si chiama omosessualità, il quale da anni veniva in quella casa esclusivamente nelle ore in cui Jupien non c'era, adesso, grazie al caso di un'indisposizione di Madame de Villeparisi, aveva incontrato il farsettaio e con lui la buona sorte costituita, per uomini come il barone, da uno di quegli individui che possono anche essere, lo vedremo, infinitamente più giovani di Jupien e più belli, da un uomo predestinato perché i primi possano avere su questa terra la loro parte di voluttà, l'uomo a cui non piacciono che i vecchi signori. Le cose che ho appena dette le avrei capite d'altronde solo a distanza di alcuni minuti, tanto aderisce alla realtà finché una circostanza non gliela strappi di dosso la proprietà d'essere invisibile. In ogni caso, per il momento ero molto seccato di non sentire più la conversazione fra l'ex farsettaio e Charlus. Mi venne in mente allora la bottega da affittare che solo una sottile parete separava da quella di Jupien. Non dovevo fare altro per arrivarci che risalire nel nostro appartamento, andare in cucina, scendere per la scala di servizio sino alle cantine, percorrerle all'interno per tutta la larghezza del cortile e raggiunto il sotterraneo dove l'ebanista fino a qualche mese prima custodiva i suoi materiali e dove Jupien progettava di mettere il suo carbone, salire i pochi gradini che immettevano nella bottega. Tutto il mio cammino così sarebbe stato al coperto e nessuno mi avrebbe visto. Era l'itinerario più prudente. Non fu quello che adottai. Girai invece, lungo i muri, tutto intorno al cortile, allo scoperto, cercando di non farmi vedere. Se così avvenne, penso di doverlo al caso più che alla mia prudenza. Al fatto poi d'aver preso un partito così incauto, quando il percorso nella cantina era tanto sicuro, trovo tre possibili spiegazioni, ammesso che ve ne sia davvero una. Innanzitutto, la mia impazienza. In secondo luogo, forse, un'oscura reminiscenza della scena di Montjuan, nascosto davanti alla finestra di Mademoiselle Vinteuil. In effetti, le cose di questo genere alle quali ho assistito hanno sempre avuto nella messa in scena il carattere della massima imprudenza e della minima verosimiglianza. Come se rivelazioni siffatte non potessero ricompensare altro che un atto pieno di rischi, sebbene parzialmente clandestino. Oso appena, infine, considerata la sua puerilità, confessare la terza ragione, che fu, ne sono convinto, inconsciamente determinante. Da quando, per verificare, constatandone la smentita, i principi militari di Saint-Loup, avevo deciso di seguire con grande meticolosità la guerra dei Boeri, m'ero messo a rileggere vecchi racconti di esplorazioni, di viaggi. Mi c'ero appassionato a quei racconti e cercavo di applicarli nella vita d'ogni giorno per darmi più coraggio. Quando, più di una volta, una crisi mi aveva costretto a restare parecchi giorni e parecchie notti di seguito, non solo senza dormire, ma senza coricarmi, senza bere, senza mangiare, nei momenti in cui lo sfinimento e la sofferenza divenivano tali da farmi temere che non li avrei mai superati, pensavo a quel certo viaggiatore sbattuto sull'arenile, avvelenato da erbe malsane, tremante di febbre negli indumenti zuppi d'acqua di mare che tuttavia, in capo a due giorni, si rimetteva in sesto e riprendeva a caso il cammino, alla ricerca di una popolazione purché sia che poteva essere magari di antropofagi. Il suo esempio mi tunificava, mi restituiva la speranza e mi vergognavo d'aver ceduto per un istante allo scoramento. Raffigurandomi i boeri i quali, di fronte alle truppe inglesi, non esitavano a esporsi quando bisognava attraversare per riguadagnare il riparo di una macchia, dei tratti d'aperta campagna, sarebbe grottesco, mi dicevo, se fossi più pusillanime, visto che il teatro d'operazioni è semplicemente il nostro cortile. È l'unica lama di cui debba aver timore, io che mi sono battuto parecchie volte in duello, senza paura, al tempo dell'affare Dreyfus. È quella dello sguardo dei vicini, che hanno ben altro da fare che guardare in cortile. Ma quando mi trovai nella bottega, bene attento a evitare che il pavimento scricchiolasse, rendendomi conto che ogni minimo scricchiolio proveniente dalla bottega di Jupien si sentiva in quella dove ero io, pensai quanto Jupien e Charlus fossero stati imprudenti e favoriti dalla sorte. Non osavo muovermi. Lo staffiere dei Germant, approfittando evidentemente della loro assenza, aveva trasportato nella bottega in cui mi trovavo una scala custodita fino allora nella rimessa. Se vi fossi salito, avrei potuto aprire il vasistas e sentire come se fossi stato proprio da Jupien. Ma temevo di far rumore. Del resto era inutile. Non dovetti nemmeno rimpiangere d'aver raggiunto la mia bottega solo dopo qualche minuto. Infatti, da quel che sentii dapprima in quella di Jupien, e che non fu altro che una serie di suoni inarticolati, suppongo che fossero state scambiate ben poche parole. È vero che erano quei suoni così violenti che se non fossero stati regolarmente ripresi un'ottava più su da un gemito parallelo, avrei potuto credere che una persona lì a due passi da me ne stesse scannando un'altra e che l'assassino e la vittima resuscitata facessero poi insieme un bagno per cancellare le tracce del delitto. In seguito, ne conclusi che c'è qualcosa d'altrettanto rumoroso della sofferenza, ed è il piacere, soprattutto quando vi si aggiungano, in mancanza del timore di procreare, da escludersi in questo caso, malgrado l'esempio poco probante della leggenda aurea, problemi immediati di pulizia. Alla fine, passata all'incirca mezz'ora, durante la quale ero salito a passi felpati sulla mia scala per guardare, senza peraltro aprirlo, attraverso il vasistas, s'avviò una conversazione. Jupien rifiutava energicamente il denaro che il signor di Charlus voleva dargli. Poi Charlus accennò uscire dalla bottega. «Perché vi rasate il mento?» gli chiese Jupien in tono carezzevole. «Sta così bene, una bella barba!» «Bah, che schifo!» replicò il barone. Indugiava ancora tuttavia sulla soglia e chiedeva a Jupien informazioni sul quartiere. «Sapete niente del venditore di castagne che sta all'angolo? No, non quello di sinistra, è orribile. Quello sull'altro lato. Un pezzo d'uomo scuro scuro. E il farmacista di fronte? C'è un fattorino molto grazioso lì che consegna i medicinali in bicicletta». Queste domande, senza dubbio, ferirono Jupien, giacché, prendendo la posa altera e stizzita di una gran civetta delusa, replicò: «Vedo che siete molto incostante». Proferito in tono doloroso, gelido e manierato, il rimprovero dovette toccare Charlus che, per annullare la cattiva impressione prodotta dalla sua curiosità, rivolse a Jupien, a voce troppo bassa perché potessi distinguere bene le parole, una preghiera in forza della quale, indubbiamente, avrebbero dovuto prolungare la loro permanenza dentro la bottega e che commosse il farsettaio in misura sufficiente a cancellarne il dolore, dato che contemplò la faccia del barone, grassa e congestionata sotto i capelli grigi, con l'espressione di beatitudine di chi è stato profondamente lusingato nel suo amor proprio. E deciso ad accordare a Charlus ciò che questi gli aveva domandato, Jupien, dopo alcune osservazioni affatto prive di finezza, del tipo «Avete un gran bel culo voi», disse infine il barone in tono sorridente, commosso, superiore e riconoscente: «Ma sì, come vuoi, bambinone».